tua mano, voglio andare lontano, e passa gli occhi di un bambino, e tutte queste guerre inutili, che sto vivendo, che sto mandando, che sto intorno a me. Ho bisogno d'amore, ho bisogno d'amore, dammi la tua mano, dammi la tua mano, attraverso un nuovo giorno, percorrendo questo mondo, ora mi sento vivo, in questo cielo io respiro, se riesci a far sorridere un bambino, lo vedi.